La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori, con This is the End, Jim Morrison, oggi venerdì 11 di ottobre, un saluto, e abbiamo deciso di finire questa settimana con un tono meno pessimistico di quello che purtroppo giorno dopo giorno ci vede commentare il fatto del giorno. Quindi oggi noi non commenteremo la decisione assunta ieri sera dal governo di salvare l'Italia, questa volta di privati falliti, dopo che aveva gestore stato fallito prima di loro, di salvarla con Poste. Non lo commenteremo, non commenteremo il fatto che il Financial Times commenta stamattina dicendo: beh, se fa così Letta non riuscirà a convincerci certo di essere un grande cambio di passo, come ci ha detto pochi giorni fa ottenendo la fiducia. Non commenteremo il fatto che oggi per esempio gli investitori privati, i risparmiatori britannici, si strappano di mano le azioni di Royal Mail, cioè delle Poste britanniche, che oggi viene privatizzata, mentre noi con le Poste pubbliche invece ristatalizziamo l'Italia. No, abbiamo deciso di finire questa settimana ponendo una domanda di fondo a un personaggio che viene dall'impresa, è un personaggio di straordinario successo, che in questi anni rialza la bandiera della credibilità, del saper fare, del marchio, del brand Italia, diciamo così, in tutto il mondo, e che non si accontenta di fare questo con risultati sonanti, dopo essersi reinventato, perché aveva dal padre preso in mano un'azienda portandola alla vetta nel mercato italiano del consumo elettronico di massa, e poi si è reinventato in 10 anni straordinariamente in tutt'altro settore. No, fa questo anche con una instancabile attività di promozione, non solo dei suoi prodotti, di quello che fa, di come cresce nel mondo, ma della convinzione che gli italiani devono nutrire in se stessi, della fiducia, dell'ottimismo, del fatto che si può fare. Non è vero che siamo condannati, non siamo portatori di una tara genetica per cui non riusciamo e non facciamo. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del fondatore appunto di It Italy, di una impresa che sta non solo in molti posti in Italia, a Torino, a Roma è grandissima, ma che poi se n'è andata in America, a New York, che dopo New York aprirà prossimamente a Chicago, è in progetto di aprire a Toronto, Boston e Los Angeles, che ha come prossime aperture Mosca, Istanbul, Dubai, sta a Tokyo e molti altri posti in Giappone. Stiamo parlando di Oscar Farinetti, lo avrete capito, che è qui con noi e io lo ringrazio. Buongiorno. Buongiorno Oscar. Ecco, Oscar, lo meriti tu, non io. Io sono un povero piemontese amante di vino, e prima di farti un po' di domande, lascia che io ricordi a chi ci ascolta questo meraviglioso nuovo libro, perché ne avevi fatto un altro con un'esperienza di vela e amante di vela, gira con Soldini, farà un'altra esperienza l'anno prossimo o l'anno dopo ancora, sempre con Soldini nel passaggio a nord-ovest, visto che si sciolgono i ghiacci. Ma questo libro che Oscar Farinetti ha fatto insieme a Shigeru Hayashi, che è un maestro del vino e che lo ha aiutato in Giappone, e insieme alla sua inseparabile Simona Milvo, che è quella insomma che gli dà un po' una mano nelle cose concrete di stampo, questo libro si intitola Storia di coraggio, sono 12 incontri con i grandi italiani del vino, dal nord-ovest, i grandi voglio dire del Barolo, al nord-est con Josco Gravner, che io conosco e stimo in maniera assoluta, quindi dal nord, dal veronese, fino a sud con il Planeta. Trovate in questi incontri un dialogo con le storie di chi anima il meglio del vino italiano, però parlando di loro, del perché lo fanno, come lo hanno fatto, come ci si sono appassionati, che confidenza hanno con i numeri e che cosa per loro conta la qualità. Sapete che oggi non parleremo tanto di tecniche di vino, ma anche lì c'è un bel dibattito in corso da un po' di anni tra biodinamico, biologico e chi sia e chi no. E quindi Farinetti spiega poi perché lui è diventato anche un grande proprietario di aziende agricole. Ma ripeto, non voglio tanto parlare di questo, perché questo la gente più o meno lo sa di Farinetti. Quello che mi interessa è porti una domanda: perché l'ottimismo e questa fiducia di cui tu parli dovrebbe essere non un dovere, uno deve averlo verso la propria bandiera, ma su cosa è fondata davvero rispetto a quello che vedi al di là della straordinaria capacità tua e di questi imprenditori dell'agroalimentare italiano, ma vedendo il paese e vedendo il resto del mondo, perché essere ottimisti? È fondata sul fatto che il nostro mix di bellezze, il mix di bellezze dell'Italia, è tra i più alti, se non il più alto al mondo. Sto parlando del mix tra paesaggi, patrimonio artistico e agroalimentare. È sono i nostri giacimenti petroliferi. È fondato sul fatto che a fronte di questo mix di bellezze così elevato, abbiamo dei numeri così bassi di esportazione di agroalimentare e di turismo che con poco che facciamo, ma veramente poco, Oscar, riusciremmo ad aumentare le esportazioni dell'agroalimentare in maniera potente, a raddoppiare il numero dei turisti stranieri in Italia. Secondo me, dentro gli italiani c'è questa potenzialità, abbiamo per una serie di ragioni delle istituzioni che bloccano questa creatività. Infatti, se il paese è ancora in piedi e ce la fa, è dovuto anche molto a tanti imprenditori creativi che sono partiti, hanno girato il mondo, hanno fatto delle robe. Noi abbiamo dei fenomeni a livello mondiale e anche a dei lavoratori che si impegnano e fanno le robe. E su questo, aspetta, e su questo siamo d'accordissimo, però, oltre alla politica di cui parliamo dopo, se ti faccio un esempio, in Francia, cose come la proiezione sul mercato mondiale della catena verticale e orizzontale della qualità dell'agroalimentare francese, lo hanno fatto grandi gruppi di distribuzione come Auchan, come Carrefour. Da noi in Italia i grandi gruppi di distribuzione, ma diciamo lì due nomi, Esselunga da una parte, Legacoop, si fanno la guerra in Italia, i grandi produttori del vino, anche quelli piemontesi, anche dopo la rivoluzione degli anni 80 e così via, preferiscono e hanno preferito sempre farsi la battaglia tra loro. Siamo arrivati solo quest'anno un'intesa tra i grandi Barolo e Barbareschi e i grandi Toscani per andare all'estero insieme. Prima che ci fossi tu era così. Anche i privati un po' si fanno la guerra tra loro e non sanno proiettarsi fuori, o no? Bene, hai centrato assolutamente il tema. Gli italiani manca il retail che va all'estero, i francesi che hanno Carrefour, che ho tanti ipermercati in Cina, vendono solo prodotti francesi ed è per questo che noi esportiamo la metà di loro, solo per questo. Per quanto riguarda invece i nostri produttori, se da un lato è vero che c'è una scarsa disponibilità a fare rete, che secondo me è atavica per noi italiani, noi siamo i figli di Marco Polo e di Cristoforo Colombo, cioè di grandissimi creativi solitari, non abbiamo una forte disponibilità a fare rete, ma non è un problema enorme. Dobbiamo avere delle istituzioni che non impediscano anche alla creatività dei singoli di partire e di esplodere. Io non perderei tempo a cercare di emulare i francesi nel fare rete, mentre assolutamente li vorrei emulare nel retail italiano. Credo che Italy nel retail all'estero, Italy abbia dimostrato che si può andare all'estero. Abbiamo aperto New York, facciamo 80 milioni di dollari, ci lavorano 800 americani, è un successo enorme. Chiunque può andare a aprire in America, la Coop, l'Esselunga che hai citato te, ma anche altri. E non ti nascondo che sto lavorando in questo senso per sensibilizzarli molto. Sul resto noi dobbiamo stabilire una strategia diversa dai francesi, perché non ce l'abbiamo nel DNA quella di fare rete. Dovremmo trovare il modo di instaurare un macro disciplinare creativo, innovativo, votato alla pulizia, perché il prossimo principio di marketing che sfonderà nel mondo sarà il pulito, cioè il green. Noi dovremmo avere un macro disciplinare Italia che dice no OGM, no concimi chimici, no diserbanti. Trovare un simbolo, come è stato quello della pura nana vergine del vero cuoio, un simbolo che rappresenta questo disciplinare, chi rispetta questo disciplinare, e andarlo a pubblicizzare nel mondo. Poi di lì, sto parlando di tre grandi regole, punto. Poi di lì le varie creatività dei singoli produttori si libereranno, perché se il retail non è andato, i singoli produttori italiani sono andati con una potenza enorme nel mondo, tant'è che esportiamo 31 miliardi, mica noccioline. Mica noccioline, si potrebbe fare molto di più, torniamo tra un minuto, certo. Adesso le informazioni stradali. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, siamo con Oscar Farinetti, stiamo parlando di Italy, ma stiamo parlando anche di quello che Italy insegna per aumentare la proiezione, la fiducia nella proiezione dell'Italia all'estero. Molti ascoltatori ci mandano sms, Oscar dicendo, va bene, sull'agroalimentare ammesso e non concesso, anzi sicuramente è vero, ma siccome siamo il paese che più rapidamente sta deindustrializzando, da che eravamo il secondo a vocazione manifatturiera in Europa, questa stessa logica, secondo te, si può applicare anche alla manifattura industriale? Sì. Noi dobbiamo puntare sulle nostre cinque vocazioni, Oscar, di cui una è l'industria manifatturiera di precisione, dove siamo dei fenomeni, siamo già molto bravi, ma possiamo crescere ancora. Io però non disperderei energie, sto dicendo delle istituzioni a livello promozionale, su cose che non siano le nostre cinque vocazioni, che sono l'agroalimentare, l'industria manifatturiera di precisione, il turismo, il patrimonio artistico, tutto quello che ruota intorno al mondo della cultura e naturalmente la moda e il design, mettiamo tutto dentro quello. Però tu per primo credo, quando volevi, e stai ancora, insomma, usi toni diplomatici, è giusto, volevi aprire prima a Milano, ti sei imbattuto nello Stato, nella burocrazia che ti fa perdere tempo. Ma sai, a Milano, a dire la verità, mica tanto. Hanno pompato molto i giornali. Ah, non è che in questo momento c'è un giornalismo un po' esagerato, sì, no? In tutto, che tende ad esagerare. Non è vero. Non ho avuto, ho avuto dei problemi a Bari, ho avuto problemi da altre parti. Ma guarda che la burocrazia, lo dico sempre a tutti, non c'è solo in Italia. Per esempio la burocrazia sull'alcol, piuttosto che sulle union che c'è negli Stati Uniti, è imbattibile. Io trovo che, ok, c'è un'orribile burocrazia in Italia perché è direttamente proporzionale all'incapacità, all'incompetenza dei politici, però per molti è un alibi, Molta burocrazia alla fine non si fanno le robe, non vorrei che fosse usata per mancanza di coraggio poi alla fine. Senti, in un paese che ha una vocazione al lavoro autonomo e all'autoimprenditoria molto forte in questi anni di crisi, è ovvio che le botte sono state pesanti per tutti, per quelli che volevano scommettere su se stesso. Nel giro che tu fai dei 12 grandi vignaioli italiani, proprietari di aziende, ma che se ne occupano direttamente, non sono solo proprietari che fanno finanza, insomma i 12 che incontri tu, in realtà per tutti praticamente o quasi la tradizione di famiglia è la cosa di fondo. Tu in realtà hai comprato quando eri già un uomo di successo. Si può iniziare dal basso nell'Italia non avendo una tradizione e non essendo già un uomo di successo in questo campo il tuo? Sì, è proprio su questo che io voglio insistere, anche uno dei motivi per cui ho scritto il libro. Io sostengo che il coraggio è contagioso, cioè sostengo che i grandi valori positivi, come purtroppo i grandi valori negativi, siano contagiosi e nel giro di poco tempo si possono cambiare anche le mentalità dei popoli. Se arrivano dei leader con grandi valori positivi e sono contagiosi in questo senso. E quindi secondo me la cosa principale di questo libro è che lo leggano dei giovani, che gli venga voglia di intraprendere, sempre sulle cinque vocazioni che ti dicevo. Per esempio nel turismo c'è un sacco di lavoro da fare per i giovani innovativi nel nostro paese. Possiamo raddoppiare il numero dei turisti in Italia, che vorrebbe dire 2 milioni di posti di lavoro nuovi, vorrebbe dire 120 miliardi di soldi freschi che arrivano. E come così può succedere nell'agroalimentare? Sai che c'è un sacco di giovani che, non trovando lavoro, si stanno buttando in agricoltura. Allora io suggerisco di lavorare sulla qualità e sulla pulizia e su prodotti alimentari facilmente esportabili. Questo è il futuro, si può fare anche partendo da zero. Senti, sai meglio di me che in questi ultimi anni, per effetto della enorme generosità degli incentivi sotto il fotovoltaico, in realtà l'abbandono delle terre ha visto la gente svoluto reinvestire, soprattutto, insomma, un fenomeno molto rilevante, ma più che altro per prendere i soldi degli incentivi e fare fotovoltaico a terra invece che agricoltura. Sì. Questi fenomeni forse ci fanno pensare, abbiamo bisogno di più incentivi pubblici? Io sarei contrario, o di che cos'altro per fare agricoltura di qualità come dici tu? Io la penso esattamente come te, con gli incentivi pubblici non combiniamo niente, creiamo degli imprenditori assistiti che non valgono nulla. Due numeri, 17 milioni di ettari coltivabili in Italia, ne lavoriamo 14 milioni e non tutti benissimo, vuol dire che abbiamo la potenzialità di crescere ancora almeno del 40% in quantità e di molto in qualità, però dobbiamo fare cose che vogliono e le persone del mondo, i cittadini del mondo. Perché ci sono centinaia di milioni di clienti potenziali esattamente delle cose che facciamo, e il problema è arrivarci. Sentiamo Fabio da Roma rapidamente cosa ti vuole chiedere. Fabio, prego. Sì, intanto buongiorno a entrambi gli Oscar. Allora, io sono appena tornato ieri da Colonia in Germania, dove si tiene ogni due anni una fiera che si chiama Anuga. Sicuramente Oscar Farinetti la conoscerà, è una fiera talmente grande che ci vogliono almeno tre giorni per visitarla. Perché è una fiera del store food? Brevissimo, del food ma a livello internazionale. Ecco, allora io spesso vado alle fiere perché mi occupo di food. Impressione di a Colonia? Ecco, benissimo, allora io sono tornato rinfrancato. È vero che l'agroalimentare siamo forti, però ho pensato, mi ha fatto riflettere una cosa vedendo tutte le presenze, diciamo, delle piccole, medie e grandi aziende italiane, quelle conosciute e meno conosciute, che appunto si propongono all'estero con dei prodotti di qualità. Eravamo tra gli vari stand i più belli, erano proprio quelli italiani. Ho pensato che mentre la politica fa chiacchiere, perde tempo, per fortuna noi italiani siamo abituati a lavorare, cioè chi è abituato a lavorare. Quindi continua a prescindere. Perfetto, quindi tu confermi questa vocazione all'ottimismo. Molti nostri ascoltatori dicono, Farinetti fa bene, grazie perché dà molto lavoro e qui ce n'è poco, però qui le cose non vanno. Cioè il problema è che c'è un rumore di fondo rispetto al quale tu appari eccentrico, per così dire. Stai parlando con me? Sì. Sì, lo capisco perfettamente, però voglio fargli venire voglia a sta gente. È chiaro che abbiamo bisogno che le istituzioni ci accompagnino. Altro numero fondamentale, esportiamo 31 miliardi di agroalimentare, ma sembra, addirittura la Coldiretti dice 90, ma di sicuro c'è 60 miliardi di imitazioni. Parmesan, Samba. E questo è un grandissimo scandalo. Siamo molto imitati perché tutti vogliono i nostri prodotti. Abbiamo visto anche l'intervento della Guardia Finanza tedesca esattamente alla fiera citata ieri, proprio certo, sulle imitazioni italiane. Senti, ma per cambiarla un po', per fare capire anche alla politica, arriviamoci adesso a quest'ultima domanda: su cosa cambiare? C'è bisogno di gente come te che entri o c'è bisogno semplicemente che ti ascolti in politica? C'è bisogno che cambino le persone, devono cambiare. Sai, io arrivo dal mondo delle imprese che tu conosci bene, noi se sbagliamo siamo fatti fuori, giustamente. Un manager che sbaglia viene sostituito, un capo reparto che sbaglia viene cambiato, un padrone che sbaglia viene fallisce. Non capisco perché in politica chi sbaglia rimane. Mi piace, mi piace questa cosa. Cos'è stato per te tuo padre, che era un commissario di una brigata partigiana e poi però anche un uomo d'impresa che l'ha creata, tu poi la ripresa l'hai fatta più grande. Che cos'è stato per te? Comandante della 21esima Matteotti. È stato tutto, è quello che mi ha dato i valori base, è quello che mi ha insegnato il coraggio, è quello che mi ha insegnato ad avere più rispetto del dubbio che delle certezze, è quello che mi ha insegnato a cambiare idea. È quello che mi ha insegnato a mai arrendermi, mi ha insegnato un sacco di robe, devo tutto a lui. Meno male che sono stato il suo figlio, lì è puro culo. È puro culo, ma bisogna essere all'altezza. C'è chi ci riesce come te e chi no. Grazie a Oscar Farinetti, vi ricordo il suo libro Storie di coraggio, Mondadori, 12 incontri con i grandi italiani del vino. Grazie, lo riporteremo qua su Radio 24. Voi continuate su Radio 24, con noi l'appuntamento è lunedì e in podcast.